Dunque, come lo facciamo questo carcere? Come? I muri, per esempio, i muri, come li farebbe lei? Il 31 dicembre torna a Re Bibbia. Ma a fare che? Andiamo a spezzare la solitudine delle persone recluse. Scusa, ma tutti gli anni dobbiamo fare sta cosa? A parte che sì, perché il carcere sta ancora là. E poi mai come quest'anno abbiamo bisogno di tutto. Perché va sempre peggio, sciopero della fame in 41 bis, rivolte sedate nel sangue, repressione e manganellate in piazza, femminicidi, sfratti, devo continuare? No vabbè, se la metti così andiamo tutto. Beh sì, mi raccomando, solo in gruppi da 50, non uno in più. Il 31 dicembre, dalle ore 10, presidio solidale e lenticchiata. Via Raffaele Maietti, angolo via Bartolo Longo. Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder.